Investire informati. E diamo il benvenuto ad una new entry per la nostra rubrica del giovedì. Benvenuto appunto a Carlo Giausa, direttore dei servizi di investimento e wealth management di FinecoBank. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, naturalmente do subito anche il numero verde ai nostri ascoltatori se lo fossero dimenticati, architetti compresi. 800 24 00 24. Se volete intervenire raccontandoci un po' che cosa temete dalla fase di mercato attuale, magari l'arrivo di un'altra estate turbolenta, un altro grande fatto finanziario è dietro l'angolo e ci scombussolerà un po' le ferie, un po' come è accaduto nel 2011 nell'estate dello spread, poi l'agosto dello scorso anno con la terribile crisi cinese che, come sempre racconto io, da un giorno all'altro ha fatto scomparire dalle pagine dei giornali invece la crisi greca che ci aveva così un po' interessato, ci ha interessato in un poco appunto per tutta l'estate scorsa. Allora, dottor Giausa, questa società è direi abbastanza grande, per chi non la conoscesse appunto è una società che oltre a fare attività bancarie naturalmente fa anche attività di consulenza finanziaria per 1 milione di clienti abbondanti, esatto, in Italia attraverso appunto un gruppo molto folto di personal financial advisor, quindi consulenti finanziari, sono più di 2600, ma mi interessa sapere come la pensano in questo momento il vostro milione di clienti, perché è un osservatorio direi abbastanza rilevante. Che preoccupazioni hanno in questo momento i risparmiatori che si rivolgono a voi? Ma innanzitutto il fatto che siamo ormai stabilmente in un mondo di tassi negativi sta spiazzando l'investitore italiano. Noi sappiamo che l'investitore italiano tipicamente è stato un amante delle obbligazioni di Stato e societarie, bancarie, e il fatto di non avere un rendimento è il primo grande fattore di, come dire, critico che il risparmiatore ha, perché entra in banca, entra in qualsiasi negozio finanziario italiano dove ci sono consulenti bancari e finanziari e non può avere il tasso che lui era abituato a chiedere, perché il tasso è negativo. A meno che non ci si esponga a dei rischi che poi magari di cui infatti parleremo. Altri, questo è il primo. E l'altro comportamento che ovviamente rileviamo è ancora una grandissima correlazione fra il crash delle borse e le vendite in borsa. Questo ci fa capire che ancora abbiamo tantissima strada da fare in termini di educazione finanziaria, perché tendenzialmente il comportamento razionale sarebbe quello di andare contro il mercato, cosa non facile, ma l'emotività la fa ancora la padrona. Per cui noi abbiamo visto in generale, sia nella nostra banca che sul mercato italiano, che i primi 3 mesi dell'anno, che sono stati particolarmente difficili per l'azionario, hanno visto deflussi netti, soprattutto dal risparmio gestito. E questo è sicuramente una grande opportunità per noi che facciamo questo mestiere. Ecco, infatti, vedi come vedere il bicchiere mezzo pieno qualche volta. Ma a parte questo, peraltro, mi piaceva anche raccontare che lo fanno molte società, ma FinecoBank insiste molto su questa strategia, che è quella di andare in giro per tutta Italia, naturalmente incontrando direttamente i clienti, certo, attraverso i vostri consulenti finanziari, e fare proprio un percorso simile al nostro, Nicoletta, investire informati, e cioè andare fra la gente cercando di spiegare e tradurre in termini semplici i fatti finanziari, un po' come facciamo noi nella rubrica del giovedì: apriamo il giornale e chiediamo ai nostri esperti di raccontarci di tradurre in termini operativi le scelte della banca centrale americana piuttosto che di quella europea, cosa succede se esplode di nuovo la crisi cinese nel nostro portafoglio, eccetera. Voi lo fate appunto direttamente anche sul territorio, per cui oltre a monitorare le scelte di risparmio e di investimento del vostro milione di clienti, poi li andate a sentire anche direttamente, come dicevo appunto, sul territorio. E da questo percorso che state facendo cosa sta emergendo? Dunque, sta emergendo una volontà da parte dei clienti di essere informatissimi, perché questo è il periodo in cui si unisce il bail-in, quindi la nuova regolazione europea relativa ai meccanismi di risoluzione bancaria. Di risoluzione bancaria, quindi comunque capire cosa vuol dire la crisi del sistema finanziario per i prossimi anni, perché quello che è successo alle 4 banche comunque ha scosso moltissimo non soltanto i clienti di quelle banche ma in generale i clienti del sistema, certo. E quindi capire quale sarà lo scenario del sistema finanziario, numero uno, quindi prima non prenderle, numero due, come fare a investire i propri soldi con la tolleranza al rischio che ognuno ha. Perché che in realtà qualche volta si dice sia molto alta, ma poi in realtà quando arriva, arriva la volatilità di borsa, in realtà scopriamo di essere molto vulnerabili. Ecco, tendenzialmente il cliente medio dichiara: no, non c'è nessun problema, ti lascio i soldi lì 3 o 4 anni, dopo 3 mesi c'è uno scrollone in borsa ed è pronto a ritrattare quello che ha detto. Quindi su questo ovviamente il consulente deve aiutare il cliente. Che strategie suggerite ai vostri consulenti di adottare con la clientela quando, siccome è ricorrente appunto, si manifesta un atteggiamento del genere da parte di un cliente? Cerchiamo anche di identificarci nelle posizioni delle persone che ci staranno ascoltando, a cui sarà capitato esattamente questo. Certo. Anche perché ce lo hanno raccontato in diretta e mi sono riportata anche in alcuni convegni che ho moderato recentemente proprio questo caso. C'è stato un ascoltatore che recentemente ci ha chiamato raccontandoci di aver chiaramente espresso, dice lui, tra settembre ed ottobre al suo consulente di adottare una strategia di investimento molto prudenziale, salvo poi scoprire a gennaio-febbraio che i suoi fondi avevano perso il 30-40%, quindi una perdita enorme, coerente con la perdita di borsa che c'è stata a gennaio. Però lui dice di non essersi capito con il consulente, quindi come dire un po' al contrario all'episodio che ci sta raccontando lei. Certo. Allora, in linea generale bisogna raccontare come funziona il mercato finanziario, soprattutto quello dei tassi, quello a cui era abituato il cliente. Quindi è dire al cliente: se tu pensi di non voler rischiare nulla, l'investimento che tu farai, le 100 lire, i 100.000 euro, i 10.000 euro che tu investirai, fra 1, 2, 3 anni saranno un po' meno di 100.000 euro. E questo mette subito sul chi va là il cliente, perché poi il cliente italiano vorrebbe guadagnare senza rischiare. Certo. Cosa non possibile. La cosa che io sottolineo e mi piace sottolineare oggi è che l'orizzonte temporale, che di solito è stato sempre un po' snobbato, perché la domanda era: quanto mi dai fino alla fine dell'anno? Ecco, questo comincia a essere molto più consapevole nella testa del cliente, perché se voglio guadagnare delle obbligazioni, pur poco, devo allungare comunque l'orizzonte temporale, ma capisce che se non diversifica il portafoglio, non solo sulle obbligazioni, ma anche sulle azioni, perché poi sono quelle che nel lungo periodo danno maggior rendimento reale, non si porta a casa niente. E questo, ecco, c'è molta più consapevolezza. Poi da qui a dire che il comportamento sarà virtuoso anche nel durante, il principale nemico del risparmiatore italiano è il breve termine. Il breve termine, perché se tu sposi il fatto che le borse internazionali nel lungo periodo hanno storicamente reso di più delle obbligazioni, nel breve periodo questo non è vero. Per cui è importantissima la figura del consulente finanziario per tenere, come dire, sotto controllo l'emotività del breve periodo. Il breve periodo è il nostro nemico. Certo, allora se dovessimo fare, quindi, come piacerebbe a Nicoletta, uno schemino per fissare già i primi 3 capisaldi della nostra conversazione, abbiamo detto che fattori importanti per investire già usa sono l'orizzonte temporale, sul quale il consulente finanziario deve davvero insistere, perché molti paradigmi sono saltati negli ultimi anni, per cui fissiamo bene la barra dritta su un obiettivo e diamoci un orizzonte temporale chiaro. Oppure su più obiettivi, perché l'altra cosa che l'italiano non ha mai fatto è considerare il suo patrimonio come un unicum. Non è così. Se io ho 100.000, 50.000 o 1 milione, non tutti quei soldi serviranno alla stessa cosa a una certa data. Certo, o a fare la pensione, a comprare la seconda casa, a finanziare il piano di studi per i figli. Quale che sia la ricchezza, ogni pezzo della ricchezza deve avere un obiettivo per la famiglia, e a questo obiettivo deve essere associato un obiettivo temporale, altrimenti siamo stati noi non bravi a spiegare bene. Quindi obiettivo associato ad un orizzonte temporale, poi la diversificazione, sempre, che anche qui non facciamo ancora correttamente, Nicoletta, e poi l'emotività. Gli amici di Fineco mi hanno fatto vedere un filmato, adesso lo dico, però non dovrei dirlo, ma un pochino lo dico, che utilizzano appunto per i loro percorsi interni di chiacchiera con i clienti sul territorio, appunto anche di formazione per i consulenti, dove c'è anche questa frase molto indicativa: l'emotività, quando si parla è una cosa, quando ci si trova dentro ad una situazione è tutta un'altra storia. Vabbè. E questo vale appunto proprio per i mercati finanziari, ovviamente. Siamo disposti sì a tollerare le perdite se ci saranno momentaneamente, poi quando ci troviamo dentro a quella perdita, affrontarla è tutto un altro questo discorso. Questo sta diventando per il 60-70% il tempo di chi fa consulenza finanziaria, quindi che sì tecnica, ma molto, molto, molto psicologica e comportamentale. Cuore denari, esattamente, nuovo, non c'è niente da fare. Quando poi le cose ti capitano e ci sei dentro, allora cambia sempre tutta la prospettiva. Esattamente come per la problematica di salute. cuore e denari. Ho adottato questa canzone dove si parla di soldi in maniera un po' pop, perché cerchiamo anche noi di fare questo sforzo, tradurre i termini finanziari in maniera popolare in modo tale che le persone capiscano le notizie finanziarie e facciano poi delle scelte di investimento in maniera più consapevole. Non so se il nostro lavoro sta andando bene, speriamo di sì. Insomma, oggi ha accettato di venire a fare con noi questo percorso Carlo Giausa, direttore dei servizi di investimento e wealth management di FinecoBank. Allora, dove eravamo rimasti ai fattori importanti per investire, eravamo rimasti anche all'altro tema, come raccontare ed interpretare le notizie finanziarie. Allora, so che un vostro altro grande cavallo di battaglia di questo periodo appunto è anche questo. Ci racconterebbe, allora, rispetto a come è stata raccontata dal Sole 24 Ore dai giornali, la crisi cinese. Giausa. Ma io, ecco, perché so che le piace questo punto. Per quanto riguarda... Noi siamo anche qua. Allora, arriva il crollo di borsa cinese, naturalmente tutti subito corriamo a scrivere, a raccontare. Io, si figuri che la devo raccontare ogni ora la borsa, vado subito a dire, insomma, bruciati miliardi di capitalizzazione, borsa cinese nel mirino degli investitori, indici in totale perdita. Quindi diciamo che, ecco, l'esempio di una delle borse importanti o comunque di un'attività di investimento che perde valore nel breve periodo, a chi fa attività di consulenza di medio periodo, di pianificazione dei risparmi di una famiglia, dovrebbe interessare il giusto. O addirittura niente. Però abitiamo su questa terra. No, se no non faremo investire informati. Un pochino bisogna anche che si interessino, perché sennò come la crisi dei mutui subprime, dopo un anno io me la sono trovata nel mio mutuo, io mi porto dietro sempre questo concetto, Giausa, per cui è bene anche che sappiamo se qualche cosa di importante accade dall'altro capo del mondo. Ecco, da questo punto di vista il risparmiatore che con il suo consulente ha stabilito degli obiettivi di medio periodo, quindi fra un anno e mezzo un pezzo del portafoglio mi serve perché devo pagare l'università mio figlio che ha 20 anni, fra e 5 deve anni fuori. Devo fare quest'altra cosa, comprare la seconda casa, ovviamente avrò spacchettato il rischio di quel portafoglio. Se devo investire un anno, sostanzialmente il rischio sarà zero, pur essendo in un periodo in cui il rischio zero non esiste, però la volatilità, cioè il fatto che il titolo o il portafoglio faccia più o meno durante il breve periodo è praticamente azzerata. Quindi nel breve periodo, se io ho correttamente pianificato che la borsa di New York crolli o quella cinese salga, non mi interessa, ma non mi interessa neanche se sale. Ecco, questo è il punto. Ecco. Il punto è questo. Quello che dicevo prima, il comportamento emotivo fa sì che nel momento in cui per una o due settimane i telegiornali o i radiogiornali riportano notizie molto positive o molto negative, succede esattamente il contrario di quello che dovrebbe succedere. Supponiamo, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, le borse salgono da un mese. Cosa succede alla raccolta, soprattutto degli investimenti più rischiosi? Aumenta, cosa che è contraria all'investimento razionale. Esattamente il contrario di quello che succede quando dopo un mese o due mesi i telegiornali che dicono che le borse bruciano, lì è il momento ovviamente di comprare, le persone escono. E questo quindi tra l'altro amplificano anche il movimento a ribasso di borse. Però se c'è uno scambio su un mercato azionario, c'è sempre qualcuno che compra. E di solito sono gli investitori istituzionali, sono i fondi, sono le assicurazioni, sono i grandi investitori privati che approfittano, fra virgolette, della debolezza altrui. Perché in borsa c'è sempre dall'altra parte uno che compra se c'è uno che vende. E questo è quindi una tradotto in gergo giornalistico, il crollo della borsa cinese, così come potrebbe verificarsi un giorno a Piazza Affari, andrebbe tradotto più che bruciati 100 miliardi di capitalizzazione, saldi in borsa, attenzione, sono partiti gli sconti, per cui adesso non vorremmo essere neanche così tranchant. È chiaro che anche queste azioni vanno fatte con un po' di sale in testa, però impariamo anche, ecco, a dare il giusto peso alle notizie, soprattutto se abbiamo un obiettivo di vita finanziario molto chiaro, ecco. Quindi lasciamoci condizionare parzialmente dai fatti finanziari. Detto questo, io sentirei Maurizio da Padova adesso, perché mi dà anche Nicoletta il famoso assist. Trova un'altra parola con meno S, te lo devo Sì. Ho dovuto anche il Sassuolo oggi. Oggi è stata una giornata Francesco, nera per te. D'altra parte, vabbè, allora, dai, possiamo un resistere. Assist cosa potrebbe essere? Sul piatto della bilancia, Maurizio, vabbè, mi mette un tema che voglio affrontare, perché la settimana scorsa, Giauso, noi siamo state, c'eravate anche voi, ma non vi abbiamo incontrati. Siamo state non a Forum a di Rimini. E abbiamo intervistato questo super signore della Federal Reserve di Atlanta, che ci ha raccontato una cosa molto interessante sull'analisi che ha fatto sullo strumento fondo di investimento, e fra un po' le ripropongo questa intervista. Intanto sentiamo Maurizio. Benvenuto. Buongiorno, sono Maurizio. Io ho nel mio profilo tanti fondi di investimento, però sono tutti negativi. Sono stato ieri, sono tutti negativi. Un profilo equilibrato oltretutto. Da quanto è investito Maurizio? Perché se li ha sottoscritti 2 settimane fa è un conto, no, se invece è investito da 5 anni, di un anno fa, se no gli altri prima qualcosa ho portato a casa, ma adesso sono quasi tutti negativi. Maurizio, allora, da agosto di un anno fa lo sa che il mondo finanziario si è ribaltato proprio a causa della Cina, ecco qua. Allora, che cosa vogliamo dire a Maurizio? È un po' troppo breve il lasso di tempo in cui fa il check up al suo portafoglio, Giausa, oppure il suo consulente non lo ha chiamato quando erano i momenti decisivi sul mercato, spiegandogli: guarda, sta accadendo questo, se vai a controllare ora sarai un po' in perdita. Allora, è stato un po' mollato? Senza avere nessun genere di informazione sull'investimento, esatto, e sui non tipi di fondi. Non si può fare diagnosi, vedi? Teniamo conto che i fondi di investimento sono lo specchio di un mercato che, nel quale investono, per cui tanti fondi possono voler dire obbligazioni dei paesi emergenti, azioni americane, azioni italiane, quindi allora è un po' generico, però è sicuramente molto breve il periodo considerato, perché da agosto a maggio il periodo è molto breve. Probabilmente l'inizio di quest'anno non ha aiutato, però ribadisco quello che ho detto prima. Entrare in un momento di particolare turbolenze può essere visto come una grande opportunità. Quindi il consiglio è incontrare il consulente, vedere se gli obiettivi del cliente sono cambiati nel frattempo, perché anche questo può succedere. Se così non fosse, o aggiustare la strategia insieme al consulente, perché è arrivato il momento di comprare, o di comprare qualcosa in più rispetto a quello che si era fatto. Ribadisco, io non ho il portafoglio davanti, quindi non ho idea di come sia stato impostato. Escluderei di uscire dai fondi di investimento. Il fondo di investimento, per definizione, è uno strumento che investe nel medio periodo. Dato che la definizione di medio periodo è molto generica, se però intanto è superiore ai 3 anni, su questo possiamo dare una certezza. Sicuramente superiore ai 3 anni, quindi è prematuro dare un giudizio su quell'investimento. Allora, Mark Jensen è ricercatore e consigliere della Federal Reserve di Atlanta. La settimana scorsa era a Rimini, noi ve l'abbiamo proposto con le sue considerazioni, i suoi timori sulla Brexit, ma in realtà in occasione di questa manifestazione di Rimini ha presentato i risultati di una ricerca condotta negli Stati Uniti su 5.500 fondi azionari americani dal 1961 fino alla fine degli anni 90. Da questa ricerca è emerso che solo pochi hanno fatto meglio del mercato. Allora, noi abbiamo voluto sapere qualcosa in più di questa ricerca, perché anche in Italia lo strumento fondo di investimento, un po' anche come ci esprimeva Maurizio da Padova, è spesso visto come uno strumento non efficiente. Allora, sentiamo che cosa ci racconta su questa esperienza americana, poi la commentiamo con Carlo Giausa. We look at these US equity funds. Quello che abbiamo fatto è stato osservare e studiare i fondi azionari americani in un periodo compreso fra il 1961 e la fine degli anni 90. Molto spesso il mondo accademico dice che è un vero e proprio spreco, non solo di tempo ma anche di denaro, quello di assegnare i propri risparmi e dare i propri risparmi ad un gestore di fondi attivo. Cioè, è vero, molto ci sono situazioni in cui un fondo gestito attivamente è in grado di ottenere delle performance superiori al mercato. Però il problema è che sono pochissimi i fondi che riescono effettivamente a farlo, magari servendosi della consulenza di un consulente finanziario. E poi, anche nel caso in cui si riesca effettivamente a trovare il fondo di investimento gestito attivamente che performa meno del mercato, magari lo sta facendo oggi, ma non è detto che possa continuare a farlo anche in futuro. Quindi sì, è vero, magari ci sono dei gestori fondi bravissimi che riescono a farti performare meglio del mercato, però direi che per un investitore investitore così retailer che magari non ha tutte le informazioni necessarie per poter fare la scelta giusta, forse la cosa più conveniente in realtà è investire in un fondo, in un indice, questo perché i costi sono molto più bassi e le commissioni sono molto più basse. Non è una ricerca dal risultato leggero, Giausa. 5.500 fondi, peraltro poi vi faccio sentire anche il secondo passaggio dell'intervista, gli ho chiesto anche che cosa ne pensasse l'industria del risparmio gestito americana di questa indagine, che la mette un po' sotto accusa, e lui dice, beh, insomma, non è che si siano interessati tanto, in realtà è stata una ricerca che ha interessato di più il mondo accademico, però lui dice, a questo punto, fuori dai fondi, meglio l'ETF. Allora, io concordo con il vostro ospite, anche perché questo genere di analisi fatta sul mercato americano non può che portare a quella conclusione. È già stata fatta anche da molte università internazionali. E il problema è questo, è stato preso come parametro di riferimento il mercato più efficiente, più liquido del mondo, l'azionario americano. Battere l'azionario americano, che ha il maggior numero di titoli quotati, più liquidi nel mondo, è la cosa più difficile che esista sul mercato finanziario. Quindi concordo sul fatto che ci sono pochissimi fondi azionari americani che battono i parametri che battono il mercato e pagano, ovviamente, ripagano le commissioni al cliente, e che è molto meglio investire tramite fondi passivi o ETF, perché esprimono in maniera più efficiente il mercato sottostante, cioè quello azionario americano. Non concordo su tutti i mercati, perché non tutti i mercati hanno quell'efficienza. Ci sono indici che hanno non 500 titoli come lo Standard & Poor's, ma hanno 50. Basti vedere i panieri, insomma, europei. Chissà se facesse la stessa indagine qua, cosa risulterebbe? Molto meno, ma anche sui bond. Il mondo dei bond è molto più difficile di quello dell'equity americano, soprattutto quando si va nelle obbligazioni dei paesi emergenti, per esempio. L'indice è fatto da meno paesi, quindi da meno titoli, e il gestore attivo può decidere, quello bravo, perché poi ovviamente bisogna fare differenze, se per esempio chi guarda i mercati sudamericani ha sottopesato in un certo periodo il Brasile, può farlo. L'ETF prende pedissequamente quello che è il peso dell'indice, quindi tu sei passivamente positivo, passivamente negativo. Il bravo gestore di fondi, soprattutto nei mercati non come quello americano, ha ancora il suo perché. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo soltanto sul mercato equity americano. Quindi, insomma, bene questa inchiesta, interessante, però un po' sbilanciata verso ovviamente le condizioni americane, per cui il risultato non può diciamo essere... che i mercati azionari sono i più liquidi, quindi quello che diceva il professore è... tanto più valido quanto più è presente il mercato azionario. Quindi anche il mercato europeo, pur non essendo efficiente come quello americano, ma darà meno fondi che battono il benchmark. Quando vado a prendere i mercati meno liquidi e meno efficienti, il bravo gestore straperforma l'indice. Cuore e denari. So I think finding the right manager is just for the typical investor, a very hard task. Difficile trovare il bravo fund manager, ma penso che per l'investitore medio, per la gente comune, forse la cosa migliore sia quella di andare a cercare un fondo passivo. Cioè, se io, per esempio, fossi un consulente finanziario e sapessi in effetti qual è il miglior fund manager col cui lavorare, quello che riesce a performare meglio del mercato, beh, la prima cosa che farei è chiederei una fees, una commissione per il mio lavoro di consulenza. Magari questa commissione sarebbe pari, se non addirittura superiore, a quella al return che ricaverei dall'operare con quel fund manager. Quindi ripeto, per un investitore medio forse la cosa migliore è cercare di ridurre al massimo le commissioni e diversificare il proprio portafoglio attraverso un fondo passivo. Quindi ripeto, comprare un fondo, trovare un fondo passivo con commissioni basse, in modo tale da riuscire a ottenere dei rendimenti pari a quelli appunto del mercato senza pagare troppo. Era l'ultima parte dell'intervista a Mark Jensen, ricordiamo, esponente della Federal Reserve di Atlanta, che ci ha raccontato questa analisi condotta su 5.500 fondi azionari americani. Pertanto le sue conclusioni, naturalmente anche i suggerimenti dati all'investitore privato, sono frutto di un'indagine fatta su questo mercato. Allora, dottor Giausa, ad un certo punto a Jensen ho chiesto anche quali sono quelli che lei ritiene essere i rischi di mercato in questo momento. Lui ci ha detto: noi temiamo la Brexit, in realtà per quello che riguarda il risparmiatore italiano, l'ossessione, ce lo diceva lei in apertura appunto di trasmissione, è quella dell'obbligazione. L'italiano non si rassegna a questo fatto che i titoli di Stato non solo non rendano nulla, ma addirittura siano in territorio negativo. Le allargo la domanda, ma insomma, qua possiamo chiaramente parlare del rischio di una bolla obbligazionaria a causa di tutta questa liquidità che le banche centrali continuano a mettere sul mercato, o dobbiamo descrivere anche questo fenomeno un po' come ci raccontava lei prima per la borsa in termini positivi? Ma sicuramente in termini relativi rispetto alle attività di investimento, le obbligazioni sono quelle che hanno i rischi impliciti più alti. E io volevo dare un dato, spero che sia semplice, semplicemente interpretabile dai nostri radioascoltatori. Nel 2011 l'investitore italiano che avesse investito in un BOT a tre mesi avrebbe avuto un rendimento lordo dell'1,43%, a tre mesi, quindi cosa che hanno fatto fino a qualche tempo fa. Sapete quanto deve aspettare per prendere quel rendimento oggi investendo sui titoli italiani? 10 anni. Quindi se io voglio portare a casa l'1,43 devo aspettare 10 anni, cosa che prima avrei avuto dopo 3 mesi. Devo ricordare agli ascoltatori che il 2011 è stata l'estate dello spread, che è arrivato anzi in autunno a 575 punti base, per cui oggettivamente bisognava avere anche un bel po' di pelo sullo stomaco per avere il coraggio di comprare un titolo di Stato in una fase finanziaria e politica molto delicata per il nostro paese. Certo. Detto questo, però, ecco. Corretto. La cosa che io volevo sottolineare è il rischio di detenere troppe obbligazioni, perché comunque le obbligazioni devono essere nei portafogli con il corretto peso, perché un aumento dell'1% dei tassi sui decennali delle diverse curve, ecco, io qui adesso vado un po' in maniera generica, se i tassi aumentano dell'1%, il decennale italiano, il bond americano, perdono fra l'8 e il 9% di valore. Dato che questo è un periodo in cui prima o poi l'America inizierà ad alzare i tassi, e speriamo che prima o poi l'Europa si riprenda dalla sua Perché poi l'aumento dei tassi è anche una condizione di positività economica generale. Esattamente. Ecco, questo che non è domani, assolutamente, perché non ci sono le condizioni macroeconomiche, soprattutto in Europa, però ci fa capire che quello che io penso che sia al sicuro, assolutamente al sicuro, non è nel breve periodo. Però questo volevo sottolinearlo, un punto di aumento di tassi mi fa, se io avevo un titolo che valeva 100 può arrivare a 92, 91, 93 e magari nel breve periodo mi spavento. Questo che cosa vuol dire in termini operativi e pratici, fatto salvo il principio degli obiettivi di vita, dottor Giausa, che chi fa oggi una scelta di investire sul mercato obbligazionario deve considerare la prospettiva che arriverà di aumento dei tassi di interesse, quindi posizionarsi su che scadenze? Allora, diciamo che il mercato obbligazionario preso di per sé per il lungo periodo è troppo rischioso. Ecco. Non si può non avere anche una piccola quota di mercato azionario. Io parlo sempre di azioni internazionali, cioè in cui larga parte è fatto delle azioni statunitensi, che pesano più o meno per la metà degli indici, USA e Nord America, e poi ovviamente anche dei mercati emergenti e dei mercati europei. Se non si inizia a ragionare su una quota di 15-20 punti di azioni, ovviamente tenuto conto dell'orizzonte temporale, sarà difficile portare a casa un rendimento reale positivo, proprio perché siamo in una situazione con i tassi negativi e i rendimenti delle azioni, i rendimenti attesi delle azioni non sono più quelli di qualche anno fa, certo. Sono sotto le due cifre, quindi a seconda dei diversi punti del mondo, nel medio periodo renderanno il 7, l'8, il 9%, quindi non parliamo più di quello a cui siamo stati abituati. Assolutamente. Dobbiamo ridimensionare un po' le nostre attese e pretese, aggiungerei anche. Velocemente, Giovanna dalla provincia di Cremona, è una testimonianza bella, se non altro per il tipo di investimento che ha fatto. Non riusciamo a darle moltissimo spazio. Giovanna, sentiamo se ce la facciamo a sintetizzare il suo racconto. Benvenuta. Buongiorno. Veloce, buongiorno. Veloce. Sì. Volevo fare una domanda. Io avevo un tot di soldi, 150.000 euro. Mia figlia ha espresso il desiderio di studiare in un'università privata lì a Milano, sì, al San Raffaele. Io credo nell'istruzione e ho speso all'incirca, adesso quasi 50.000 euro. Poi invece gli altri 100 ho preso una casa nelle Langhe. Allora lei mi dica, bellissima. Sì. Allora, quindi nessuno strumento finanziario, Giovanna, se questi erano i suoi desideri noi possiamo fare ben poco, se non abbiamo sotto un'obbligazione, un'azione, un fondo di investimento, riusciamo... Sì, la domanda era? La domanda era: secondo voi qual è il miglior investimento che ho fatto? Per me sull'istruzione della figlia. Sull'istruzione della figlia numero uno. Esatto. Le Langhe sono un posto bellissimo, ma comunque numero due rispetto alla figlia. Ecco, certo. Infatti, Giovanna. Se poi la figlia va a vivere nelle Langhe, si fa bingo. Giovanna voleva Fantastico. Una coccola, voleva sentirsi dire che ha fatto bene, ma ci mancherebbe altro, Giovanna, che avendo investito sull'istruzione di sua figlia non abbia fatto bene. Giauso, abbiamo terminato già questa sua prima comparizione fugace. No, fugace, è stata anche piuttosto lunga, articolata ed interessante. Grazie. Grazie a voi dell'invito. Grazie per questa così visione un po' sul tema della finanza comportamentale che oggi abbiamo affrontato in maniera un po' più consistente rispetto ad altre puntate. Nicoletta. Noi torniamo domani. Direi proprio di alle 10.30 vi aspettiamo qui. Saremo puntualissime. Però potete scaricarci. In che senso? Dal podcast. Buona giornata.